Intanto volevo dire due parole a corredo di quello che diceva Elisa, per iniziare ad allargare lo spazio alla discussione. Cioè, è molto interessante come quello che iniziava la suggestione che evocava Elisa, che la comunità afroamericana, ma anche i pensatori politici afroamericani, non siano un monolite, non sia un concetto questo, cioè non sia un'area di pensiero priva di definizioni, priva di caratteristiche. Questa cosa è molto evidente, soprattutto per il periodo degli anni 20, a quale lei alludeva, in cui due figure che lei ha citato, come quella di Du Bois e di Garvey, hanno avuto uno scontro molto forte, perché si trattava sostanzialmente anche di capire qual era il destino del popolo nero. Du Bois e Garvey ebbero un grosso scontro a un incontro di intellettuali, di pensatori neri, adesso non ricordo bene qual era, perché mettevano in discussione le prospettive diverse. Garvey profetizzava un ritorno a una terra promessa non ben identificata, che molti degli afroamericani mai avevano visto e mai avevano considerato, al di là di considerare le alterne fortune di Marcus Garvey, che venne accusato di essere anche un affarista non meglio identificato, soprattutto per le vicende della Black Star Line, mentre Du Bois parlava di un'integrazione necessaria all'interno della società americana. Proprio per questo motivo, Du Bois, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, guardò con favore positivo la partenza di soldati afroamericani verso il fronte. In questa maniera, secondo lui, il popolo afroamericano può far riconoscere i propri diritti, in quanto, secondo le regole base dello Stato-nazione, serve nell'ambito della guerra, quindi può anche rivendicare un diritto. Queste discussioni, naturalmente, se sono inizialmente confinate agli anni 20, hanno un respiro molto lungo. Arrivando poi all'esperienza forte del Black Panther Party, si pone in discussione anche un concetto, che è quello di proletariato, nel senso perché l'idea di emancipazione, l'idea di essere una nazione all'interno di una nazione più grande come potrebbero essere quelle degli Stati Uniti, inizia anche ad avere anche un valore di classe, cioè oltre a una conflittualità razziale, si pone anche una conflittualità di classe. E l'esperienza del Black Panther Party è molto interessante, in quanto dice: noi, popolo nero, costituiamo il proletariato della società americana, e proprio per questo motivo la nostra lotta deve essere in grado di avvicinare, in un secondo momento, anche quei settori in mobilitazione della società americana più in generale, quindi la classe operaia bianca, anche pure nelle tutte le differenti le particolarità della classe operaia americana, che è una classe operaia tendenzialmente conservatrice in alcune diverse parti del paese. Comunque, tutti gli immigrati, la nostra lotta deve essere una lotta in grado di catalizzare l'attenzione della società. La domanda che volevo porvi era un po' più generale, nel senso: in questa dinamica, il concetto di classe, in una lotta per l'emancipazione, come per certi versi anche in una lotta di indipendenza, il concetto di classe, di contrapposizione fra proletariato e borghesia, rischia un po' di, alle volte, di viene un po' sfumata, nel senso che in una dinamica più generale di conflitto imperiale, di conflitto fra popolazioni opprimenti e popolazioni oppresse, si tende a far coagulare in un unico aspetto la nazione, quindi facendo poi dopo scomparire quelle che sono anche l'eterogeneità, le differenze che esistono all'interno delle varie comunità, una comunità afroamericana, che, come diceva, si ricordava Elisa, è una comunità composita, e allo stesso tempo nelle nazioni dei popoli, quelli che furono i popoli del terzo mondo e quant'altro. Quindi, qui volevo chiedervi una suggestione su quella che è stata anche l'interpretazione di Frantz Fanon e l'interpretazione dei movimenti afroamericani su questo dibattito fra nazione e classe. Sì, la questione di classe, infatti, il Black Panther Party è stato il primo, non proprio, in realtà c'è il boh, insomma, però in quel periodo lì, cioè sempre connesso a Fanon, perché ti parlo in quel senso lì, a portare un discorso di classe all'interno del movimento per i diritti civili, sempre sulla scorta di Fanon e su questa nozione appunto dei dannati della terra. Cioè il fatto che Fanon identifichi il vero soggetto rivoluzionario non nel proletariato industriale classico, ma nelle masse colonizzate, contadine soprattutto del terzo mondo, che è in generale il discorso terzomondista, cioè non solo di Fanon ma anche di Mao, anche di Che Guevara, eccetera eccetera, no? Che entra negli Stati Uniti perché, appunto, dicevamo, loro si connettono a queste lotte terzomondiste perché si considerano soggetti in situazione coloniale e vedono le popolazioni dei ghetti come nuovo soggetto rivoluzionario. Popolazioni dei ghetti che sono composti sì in gran parte di lavoratori nell'industria statunitense, ma anche di sottoproletariato di tipo quasi criminale, cioè, anzi in gran parte che passa attraverso esperienze di microcriminalità, perché per esempio Fanon nella sua critica al marxismo classico inserisce anche questi soggetti, cioè è tutto il problema, insomma, avanguardie rivoluzionarie eccetera eccetera, no? Lui dice i veri soggetti rivoluzionari sono quelli che più subiscono la violenza, quindi sono le masse contadine, i disoccupati, coloro che vivono insomma ai bordi delle città coloniali, nelle bidonville, no? E quindi quello era un discorso che appunto c'era negli anni 60, ma che oggi immagino non ci sia assolutamente più. Rispondo solo alla sua domanda, ma in realtà in maniera molto proprio a caso. E poi grazie. La mia risposta alla tua domanda è molto meno da storica, è molto più da cose che ho visto e sentito letto, diciamo, ma soprattutto ho visto e sentito quando ero negli Stati Uniti. Ero stata a una conferenza su, sì, cioè adesso fanno un sacco di conferenze sull'hip hop, l'hip hop totalmente partito nel mainstream, non ha più valenza di lotta e tutto. E sentendo il discorso, come veniva strutturato il discorso e il dibattito in questa situazione che era stata creata, ed era un dibattito organizzato dall'università, se non mi sbaglio, una delle poche università pubbliche che io stavo frequentando lì, obiettivamente in un dibattito come quello che si può creare oggi, come tu richiami in un certo senso, come noi richiamiamo a una categoria di classe per cercare di capire la situazione, lì invece richiamano molto di più a categorie razziali. Quindi la categoria di classe sottostà alle categorie razziali, questo all'interno di un dibattito però per l'appunto di una situazione che si vuole o che si identifica e si interpreta come nera o afroamericano, quello che si vuole, non bianca. E cioè, io lo spiego così, come cioè nel senso, io ero entrata in quella classe e in quell'aula ero una bianca, ma non perché fossi l'unica bianca, ma perché io ero una bianca europea e l'unico intervento che ho fatto è stato per l'appunto anch'io, ma la classe che gioco ruola in che ruolo gioca in questo? La risposta era questa è una domanda europea, noi non stiamo ragionando in questi termini. E è interessante vedere come proprio per l'accesso assimilazionato, integrato che ha avuto la comunità diasporica africana negli Stati Uniti con la rivendicazione dei diritti civili, perché ovviamente la rivendicazione dei diritti civili significava l'ingresso nell'unico modello esistente in quel momento, nell'unico modello economico che era in grado, attraverso il quale la gente era in grado di mettersi il pane sulla tavola. Inevitabilmente delle dinamiche di classe sono entrate in una realtà che era maggioritariamente, anche se non esclusivamente, una realtà contadina e che si stava proletarizzando con l'urbanizzazione conseguente alla migrazione. Però questa grossa comunità eterogenea si interpreta ancora molto, nonostante l'esperienza delle pantere che erano marxisti e che tuttora oggi sono fonte di ispirazione per i tre quarti degli afroamericani o caraibico-americani impegnati politicamente negli Stati Uniti, sono comunque un punto di riferimento. Però il discorso è molto spostato, è molto grava molto sull'aspetto cioè del recupero dell'identità. In questo senso io cerco di rimandarmi appunto alla metafora di De André, cioè del recupero di un'impostazione che non si basi esclusivamente su strutture di cioè categorie di classe, esclusivamente perché c'è il sentore che la stessa dinamica industriale che implica la classe, via dicendo, è la dinamica del colono. E loro hanno ancora hanno ben presente questo fatto, ed è per questo che cercano, oltre che per tutte le discriminazioni fisiche subite, di rimandarsi ad aspetti più razzializzati che basati sulla classe.